In Italia si discute molto, dottor Martinez, ovviamente, di incentivi governativi per l'acquisto dell'auto. Qual è la sua opinione in particolare sulla situazione italiana? La mia opinione è che il mercato, che uno, il contesto economico è di crisi, la situazione si è stabilizzata, non si peggiora di più, però siamo ancora in una situazione difficile. L'abbiamo visto l'anno scorso sul piano automobilistico, senza l'aiuto statale il mercato avrebbe stato molto più basso, eh? In realtà si è chiuso l'anno scorso a meno 3%, con l'aiuto statale. Dunque, non siamo usciti della crisi, aspettiamo gli incentivi statali per quest'anno. Secondo me è importante di aiutare un settore come quello dell'automobile, fondamentale per l'economia di un paese come l'Italia, per passare, direi, l'anno 2010 in condizioni abbastanza, direi, normali. Secondo me è indispensabile, indispensabile.